Wino zizikala zose zani Tawi zose kulimbana Nianzanu Mavuto anu kodi miangati Mai wanga Mavuto anu siofanana Mavuto wanga Nanga jifukwa chani kumandi londa londa ini chotere kwa jani.